avanti chi è? Ma tu dormita, sì. Ehi, hey, you! Dammi il barbecue. Nuovo, Ehi, l'ho piazzato adesso, finito. Ehi, l'altro si era praticato un po' qui sotto. E ce l'ho buttato. Ehi, lo puoi in acciaio, il fondo di sotto, puoi in acciaio, no? No, in lamierino, fine fine. No, ma adesso in questo qua dentro c'avevo una teglia vecchia e gliel'ho messa sotto. Dunque il carbone è appoggiare su, il fuoco lo bruciare su, capito? Che dura di più, dai? La mierina, vabbè, cosa vuoi? Fa 25 euro. Quello che mi aveva dato Luca era uguale, più piccolo era, ma era uguale a questo. E mi ha funzionato più di un anno e mezzo buono me l'ha fatto. E conta l'interrazza, ha preso pure acqua, quando il vento mi ci portava la busta, il sacchetto, li mettevo, capito? E già andava, vedi? Ah, beh, certo, va bene, sì. Ieri sera, là. L'ho fatto in un'altra teglia vecchia, sopra il banchetto, ma viene male. E aggiungo giù un 7 pancette, e un 5 capocollo, e un pepperoni, una melanzana. E già fa, però deve rimanere incinato, invece questo rimane dritto. E va meglio, là. Si conferma. Beh, certo, va meglio, sì. Ma adesso non lo so se stasera lo collaudo. Un altro giorno. Dopo guardo cosa dice la padrona. Certo. Bisogna interpretarla prima. A chi è girabandini, come ti tutte le galline. E si conferma. E dammi bongo. Ma perché tu entro a casa, no? Boh, non intendo freddo, fresco. E vuol dire c'hai qualche finestra aperta e ti dà corrente. Finestra aperta o finne in occhi? No, io ce l'ho in veranda. Della tenda tirata e la finestra aperta e passa l'aria e abito pure in camera da letto e chi c'è corrente, parola. lo so, tira. Oggi cosa hai mangiato di buono? Oggi il riso a insalata. No, pasta e zucchine, una fettina di capocollo e frutta. No, riso a insalata e con la maionese sottaciti simbriati e cozze belli, buoni e freschi freschi. Dove li ha prese le cozze? E le ha prese qua vicino al treno, mi sembra. Ieri le ha prese. Sì, boh, le abbiamo prese noi da poco, mamma mia. Dove... No, quello che avevo preso ultimamente, delle loro spine non mi biasiano. Queste già sono buone, ce ne sono rimaste un po' mezza badizza. Lo so, infatti la prossima volta già so io dove comprarle. Certe volte quelle delle loro spine sono buone, però certe volte vi danno da un bel, buono in frigo e sono male. Infatti l'ultima volta, la penultima volta quelle, non ha mangiato quasi nessuno, ce li ho buttate alla mondetta. Il sapore era l'onfio. Anche noi, anche Maria se ne accorge. Ci mette un po' di puzza, io che non l'ho sentito. Niente, ce l'abbiamo, ne ho fatto un po', con la pasta, le altre abbiamo buttate. No, io laggiù. Le ho fatte bollite, poi ci metto il limone e me le mangio così. Però avevano un sapore strano, ne ho assaggiato due. Le ho guardate, beh, stampa di tutti, che cosa secondo me è già mezzo battuta e ce le ho buttate e poi non erano belle belle come dico io, quelle che rimangono belle gonfie, mi capita, erano in mezzo a crocifissi. Mi sono andati, c'è una spugnata di buonissima cipa. E queste di mare sono delicati, E poi se li mangi che si guardano fanno ben male. Già lo so già, ma io infatti sono una grampata. Ma di te vai, non mangio da avvelenare, però quando vado alle rospiglie lo dico, a chi aveva mani cassature e balle, già un paio di volte così. Anche una volta ho preso le orate, abbiamo solo il trano e non avevamo mangiato. Ma con la iatta io sono una magnata, chi l'aveva data la iatta? Lo dico, chi era putrefatta? Il cadavere. No, le ospine non puoi comprare, ma nemmeno con la garra, la carne delle ospine, ma di gente dice che non serve a niente. Quelli andano a macelleria, ma così sicuro che sono i magni. E devo spirare, lascia il tempo che trova. Vabbè. No, la carne è già minabitiosi, è andata, già si vede subito la carne che è andata, dal colorito, me ne accorgo subito. Però ci ha presa qualche volta la carne, però uno, due plateau, tre plateau, per dire... ho preso anche da poco la metà di un porcetto ed era buonissimo davvero, ma poi si vedeva la carne che era fresca, capite? E poi era porcetto sardo quello. Quello, il Bonareggio, dice era proprio buono, Cioè, la carne ti frega a quelli che non la conoscono, io già la conosco la carne. Ci ho lavorato anche in mezzo alla carne, dunque già lo so. Lo so, grazie, però è un casino. Allora, dicono che sono molto buone, dicono, ho sentito dire, quello che c'è a monte, Giovannello, la pescheria, via Petromica, lì sì che non sbagli. Ma io qua vado anche da Coso, al surgelato, e grazie a Dio laggiù sempre avuto buono tutto quello che ho comprato, sia pesci che crostacei. E dalice anche fatti scongelare, fiago non avviene, anzi lo fiago del mare bello fresco, si intende, e molte volte ci vado dalice, prendo di tutto, c'è di tutto. Fatta spaghettata, sono buone le bavette, quelle delle rospin come le faccio io, ma buone veramente. E le ho fatte anche ieri le bavette, con un po' di cozze mischiate a arselle, fresche, e non le dighi simbarate. E mi sono arrivato un poco, la già dalla iatta, adesso se la mangiato. Adesso che ho parlato, grazie a Taria, a pulire un balcone, io sono in garage, tutti abbiamo di siringhiera. No, che non mi attessi, sono tutti i garage così, no, non è solo da tenno. E devi stare attento, se in botte a tenno, se hanno finito la parte del video, se ti butti a comandare a tutti da me migliora, la punta un bullo, cioè mia adesso c'ha un'ultima analisi da fare, se non adesso sono a posto, l'altra analisi che ha fatto. A uno ne è rimasto, lo deve fare questo mese, non so che giorno. E ha arricchiato, mi ha chiesto la cosa bene, l'ha appunto, l'ha attraversato la scarpa, gli ha appunto il pollice del piede. E l'ha andato a un brutto soccorso in ambulanza appunto. No, io già sto attento, scendo con le scarpe da tennis, guardo bene. Ma per carità, che gente, che... cosa ne hanno dalla vita queste persone, non ho capito. Sannani, nulla, ma c'è anche un giombucchi in garage sotto da me. Mi sembra cinque persone sono morte giù nel garage, dove ce l'ho io. Ma nonostante che gli animisti burulati che parlano, e andano in Roma stesso. Ebbè, non timidi. Oh, oui, quando sono in astinenza, non si minimizza, ma... Per carità. Ho preso le ciliegie in via Pascoli. Belle, grosse, di Verona, ma buone. Mezzo chilo ne ho preso. Mi le ho finite ieri, le ho finite. Io ci compro spesso lì, spesso, all'angolo. O da quello dell'angolo, se no dai fratelli o parenti, sono quello di vicino a Trucchetti, anche da quello. O da uno dall'altro, secondo dove capita. Le ho preso anche io, oggi ha pigliato l'anguglia, pesche, albicocche, e poi non so cosa ha pigliato, le banane mi pare, non l'ho visto. Pesche, quelle preso io, buone lo stesso. Quelle piatte sono buone, no, pesche noci ha preso, sono buone. No, queste sono quelle piatte, io chiamo pesche pelose. Già le conosco, ci sono quelle rotonde e quelle piatte schiacciate, là. Cioè, sono buone bruchissime. Vedi, quegli usi, invece di buttarceli, te li tieni, quando scendi in campagna, fai un buchetto e ne metti tre o quattro, lo tappi e gli dai una bagnata. E le lasci, poi vedi che esce l'alberello. Io facevo così in campagna. Allora l'albero di freddi messi come scia. Sì, già sta mangiando proprio di marina. Non è, lo fatto non è farlo quando cresci, è l'albero da rileva, controllarlo, non è, non si cugnati in chimino. Non c'è il padre di marina, virusi, mica che lì sto mettendo un paio di ossa di pesche così esce la piantina. Se tu riporti già le tieni d'occhio lo babbo di Santina, di Marina, capito? Povera Gianni, infatti un bel fluisso di babba. Carla la brutta pure. Vabbè, però io per non buttarceli, facevo li mettevo a parte quando ne avevo mezza cassettina, mi buttavo la zappita, andà via, facevo un bucchetto di bugna e poi gli buttavo un po' di acqua con il mio pattuglio e noi mi lampavo un giardino. Poi una settimana gliela mettevo tre volte, là. Vabbè, già se lo fate, a me non è che mi interessa. Via. Invece è bello, io ho piantato anche un albero di noce, adesso è mezzo mannito, non è grande grande, ma già sta diventando grande. E noci sta già incominciando a farne. Lo so, mi sono il tempo a farlo. Lo so, ma quando scendi così, o sabato, la domenica, ti arriva presto, fai un buco di buoni, quando torna a farà, gli dai una bagnatina e ogni volta che scendi lo bagni tu e poi a contatto con la terra gli accresci Roma stesso. Avevo sempre il tempo grazie, e non so quindi in chivioni farò l'inverno, farò di volchi invece d'estate una volta. Praticamente vari volchi e non ci scendi spesso con Marina neanche nel sacco. E a parte la rossita, E allora? Io quando poi non ero in campagna che ero qui scendevo il sabato, la domenica, anche dal venerdì sera me ne scendevo e me ne salivo. O la domenica sera, se no il lunedì mattina, poi ne scaricavo a palette e me ne andavo alla bocca, capito? Beh, certo. Se stava bene, già era bene. Altri tempi. Prima si buttava a vago da cazzo, per carità. Beh. È inutile che uno anda in pensione da buio, poi va un capo, paghi. Cazzo, Aspetta un attimo. Ehi, hey, you. era? Leo Barone Rosso. Barone Rosso? Oh, quello della Sicilia. Quello? Il siciliano. No, è di... come si dice? Bah, non è siciliano, è calabrese. Ah, già l'ho sentito qualche volta. Ehi, c'è anche un altro di Siracusa che sentivo spesso. È Luca Frippero, te Giuse? No, ora ti ho mandato la foto. Belle, belle, sono come quelle che ho preso l'altro giorno, sono belle. Ma poi a me mi piacciono quelle che rimangono un po' scure, mi ci sono messa pure. Dolce dolce, so. Posso, dolce dolce, c'è anche la marmellata io di ciliegie, mi piace un po'. Questi si chiamano duroni, così, duroni. Eia! Morale, oh yeah. Ehi, dolci un beso, mi gustatela, non te la ingurgi subito. No, mi ricordo in treno, ma qui marchighetti, forse è tutto. Sì, sì, aveva la mitragliatrice. Ello. Ma con Gianni Maria si è sentito. Bene, funziona quella radio 27. Beh, benissimo, non bene, benissimo. Domani la smonto di nuovo. Cioè i tastini da pulire. Abbiamo un pingu in alto, baccare dai. Già l'ho vista, e quanto te l'ha fatta pagare quella? 6.500 euro. Quanto? 15 euro. Eia. Già se li vale, là. Sei quella che ho visto dal telefono. Ce n'era una l'altro giorno, nuova. Bella mia, ma dici, ma cosa me ne posso. Che radio era? Non mi ricordo la marca. C'era Kefus, mi pare. Non mi ricordo. Vabbè, questa non ne prende culo. Ma magari a te ti svia, a me non mi tarissa. Ce le ho conservate le altre rate, cosa me ne vuoi? Poi quella che c'è nuova, è mezza blu, va tutto. Lo so, l'altra è venduta là, la cosa. Quello che stai vendendo l'hai venduto? No, non mi ha chiamato nessuno. Mica ce l'ho lì. Ma non c'è problema. Era per non tenerla così e me la volevo vendere. E anche l'altra la mi sto vendendo, quella grande, il Washington, da base. Vabbè, poi la vino per nessuno. Non è quello. Ma magari qua siamo di meno, magari il continente c'è più gente, capi? E ce ne sono di più. Ma io qui, sono andato a fare nei tutti. Ho capito. Che qua stanno sparendo tutti. Più avanti va il tempo, è sempre più poca gente in tenni. Lo so, non c'è più nessuno. Hai visto che c'è un vicino che va via questa radiolina? Non sei più inteso, cosa? Come te si chiamava? Allora. Quel ragazzo di Santos, allora, non è più entrato, si sarà scassato, vabbè, all'idea sui baracchini, mi sa che è baracchino, vai, c'è pizzino, cosa, lui non diventava baracchino. Ma, te c'era in casa, mi lo adoperava mio fratello. Qualche volta ci parlavo, però, così, ero sempre in giro, ma... Ci sei tu ancora, già ci sei tu. Vedi, Gio Maria invece non gli sfuggiva, c'aveva il baracchino in busciacra, il baracchino attaccato alla moto con l'antenna lunga lunga. Lui e un altro signore che non mi ricordo il nome, che saliva lo stesso in moto via Cristoforo Colombo. In Sicilia, in visiera e un'antenna lunga lunga, non mi ricordo chi era, Gio Maria, chi era? Un califfo c'aveva. Frank Bauer. E saliva sempre lì, nella zona tua abitava. Oh, quella abitava, eh? Già bugino. Io lo vedevo spesso che passava via Cristoforo Colombo, nella salita, parava dalla Madonnina e passava davanti a noi, quando va via mia radio, sì. Io ci viva sempre in giro. Era sempre in giro, visto. La suocera, mi sembra, la suocera abitava latte dolce. Anzi, no, a Santa Maria di Pisa abitava. Ma lo vedevo spesso, quel tipo di pure baffi, me la metto ancora. Con Baccolo, no, non l'ha avuto mai Baccolo quello. I baffi ci aveva, i baffi a forma di manubrio. Ah, boh, non me la metto. Io infatti avevo piazzato la culibre, l'antenna sul parafango anteriore e su manubrio avevo fatto una cassettina di lamiera fatta a fabbro, ci mettevo la batteria 12 volte lì e più il baracchino a fianco. Che tempi, per carità, oh, yeah. Cioè, me la metto gli attividi con chi sta morto quando passavi pure giù i chili. Ma Luca mi prende. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao Lu, buonasera. C'è che passava Archimede, a Pia Rosbia, tra controllare, ma non è passato. Ma non te le do perché non funziona bene lui. Le stazionarie le segna, però non ti dà i vatti, capito? C'è una levetta, non so, forse mi fitta la molletta e bisogna aprirlo, controllarlo e... Da quella molletta non sale né scende la levetta, capito? Sicché non funziona bene, è inutile dartelo quando non funziona, capito? Vabbè, non c'è problema, ma basta darglielo a Luca, te lo controlla. Sotto controllo a Luca, te lo controllo io, per me non è un problema. Si può controllare. Ma perché è stato aperto, Gio Maria? Ah? Perché è stato aperto? No, non l'ho mai aperto io, no. L'ho aperto, oggi l'ho aperto, stamattina. E ho visto che c'è un tassino un po' mollato, deve essere la molletta in scesa, boh, che si è rotta, non lo so. Perché è un peccato, è nuovo, capito. Non ho mai aperto, ho aperto solo stamattina a vedere com'era all'interno questa levetta. Ho visto sulle altre c'è la molletta in quella o no. Sì, ma come mai è difettoso così? Su terra? Ma lui, cioè, l'avevo sempre attaccato. Sul grande l'avevo attaccato quello lì. Però siccome quando si c'è su quel parte a tracca di quella persona che abita vicino al mercato, non faccio il nome, e l'avevo smontato tutto, così che era sempre fermo, e l'altro giorno infatti l'ho aperto, l'ho attaccato e non funzionava. Ecco, capito. Lo so, faglielo vedere comunque, Luca, visto che non funziona. Se ci fa vedere stasera, domani, boh. Che passava ieri sera, non c'è passato. Eventualmente lo controllo, se riesci a aggiustarti, se no, capito, è inutile. No, le stazionarie le segna, le stazionarie le segna regolari, è tutto regolare. Solo che per esempio, se perché fa 5, 20 e 200, quella l'effetta è che se la metti a 5 è un coso, se la metti a 200 è la stessa cosa, non c'è, cioè, qualche cosa che non va in quella livello, capito? Il resto funziona, le stazionarie tu lo mandi a fondo scala, poi lo metti al centro per vedere quanti stazionari c'hai e già li segna. Lei segna perché qua però non mi segna i fatti, non mi segna i fatti, oh già non ne ho io stazionaria qua, non ne ho niente, si muove appena appena, capito? No, i fatti non me li dà. Perché non commuta il tastino, magari è mezzo spostato, boh. Vabbè, non c'è problema, avanti, grazie. Magari ne sarà saltata la molletta, sarà tagliata, sono in acciaio quello. E non ce n'era dentro nell'apparecchiatura di molletta, cucciolandola. No, l'ho guardato così e l'ho richiuso, le tocco, cazzo, che è un peccato, era un po' nuovo. E dopo nuovo è un peccato, capito? L'avevo sempre attaccato alle 4.40, l'avevo attaccato sempre. L'avevo tolto per quel motivo che ti stavo dicendo. L'avevo smontato tutto. Dalla volta, non lo so, l'ha provato altri giorni e non funzionava, ecco, tutto lì. Ma magari se si è spaccata la molletta, sarà rimasta all'interno, dentro lì, come si è spaccata, se sarà uscita anche a che cuzzurro lì. Non l'hai cucciolato, invece non imparava niente. No, non ha discusso niente, mi piace. L'ho guardato così e basta, no. Ah, l'ho dato appena per lo spruzzato tira di cose, di GRC pure a vedere. No, la molletta non commuta, capito? Non commuta, invece c'è tutto da lì. Capito? Il resto è tutto regolare, stazionale te li segna, va a fondo scala. Non mi segna i fatti, ecco, non mi segna i fatti, deve segnare anche i fatti, capito? Se lo può anche qua controllare Luca, e vedere da cosa dipende. Glielo dai, lo controlla. Se è una avversaria che si va a cucciare, si racconta e ve lo dai. Vabbè, se gli riesci a mettere a posto, glielo do sì, esatto. Tanto me ne faccio niente. Ciò che anche... Io ho anche il 600. Il diamante del 600. Che fa tutto quello che ho io, è preciso a quello di Luca, UV e HF, fa tutto, fa, capito? Così che è più c'ho quello di 200 che non funziona, però c'è anche il coso, quello della zeta Gicio anche, preciso al tuo, grazie, c'è anche quello. Ce l'ho io, mi ce l'ho qua, nello stanzino qua. Lo uso solo quando voglio controllare, ma basta che pigli la radio che da nuova e lo uso qui subito, che ce l'ha incorporata e me le segna le stazionarie. Dunque quello lì ce l'ho da una parte lì appoggiato, ma me lo tengo lo stesso quello. Anche io ho gli apparecchi che ce l'hanno tutti incorporati, il rosmetro, capito? Così che però. Uno o due me ne lascio, capito? Non si sa mai, capito? Per cui i 400, i 600 me lo lascio, i 200 se non fa funzionare, se riesce a farlo funzionare, lo do a Luca. Quello della Delta G me lo lascio pure, anche quello, capito? Meglio due avere, ne ho anche uno in campagna, dei vecchi, i primi Rosmit che avevo preso. Dell'Alan. E l'importante che funziona, ma quando funziona vecchio nuovo, l'importante che funziona. Vero Luca? Cosa? A Luca l'interessa solo, anche se non funziona il VAT, l'importante è che sappia stazionare se ce ne sono oppure no, capito? Quello è molto importante. Poi per il VAT se ne fa benedire, capito? Tanto sappiamo che i baracchi sono peggio, sono da 5 watt, i primi che sono usciti, e questi adesso sono da 4 watt. E su per giù sappiamo già 4 watt quanto arriva l'ago, capito? Ehi, Luca, cosa stai ascoltando? Una registrazione? Io dovrò tararmi l'antenna di casa. Puoi fare tararmi l'antenna? Tarare, Giovanni, perché c'ho stazionare nei canali alti. Basta, la puoi tarare, lo smetto di accialottelo, dove e li controlli e dopo me lo ridai, capito? Non vi so problemi per quello. No, io le ho controllate con quello della ZG, le stazionarie, capito? Funziona bene quello della ZG. Così che anche con quello, dico quello, cioè, quando non scende controlli bene le stazioni con quello. Ah, vabbè, già ce l'ho la capito 101 anche, non è che non c'è problema per quello. Anche se è un po' difettoso. Compratelo un altro, Luca, che se ti serve, se è difettoso vuol dire non funzionare. E Flippero non vengo in studio, non si è fatto vedere che ho male. Cosa? Flipper non si è fatto vedere il bello. Sì, sta lavorando, capito? Ha lavorato, così che dovevamo scendere in campagna, ma non si può scendere, perché sta lavorando fino a lunedì. Oh, meglio così. E come va a lasciare il manovale qua? Vabbè? Come mai che ha lasciato il manovale qua? Beh, effettivamente un lavoro a fare da solo. Certo, non mica che e sui lavori ci possono fare i due, no? Luca, a te ci hai? A te sta la cattiva, la sola. Aspetta un attimo. Vuol dire, entrava lì a fare la sola, E ho visto quando gli serviva, già lo chiamava. Così è lui. A me mi ha detto che faccia lo sforzo a chiamarlo, a chi tu cava sempre a merciarlo, a chi dice si imbucava sempre. Vero lui? E io. Visto là, la di che ha fatto, che l'ha ripreso, che ha rifatto sul tramezzo, che ci sa gambara, l'armata a muro. Luca in effetti nella ripresa non ce l'ha mai, stava sempre riprendendo chi tutto sul lato, tutti i pantaloni vara a vara, e tu ce la ridia, gli diceva lavora a schiaffo. E io, ciao Mario. E dimmi. E te sua? Avvicinati, sta uscendo a tratti. L'ha sentito Luca cosa ti dizia a Luca Flippero, ultimamente che era insieme a lui lavorando. Li futtia, ti dizia lavora a schiavo, adesso sei prebussato. Davvero? così è bello, Non mi aveva mandato il filmino. E che tu travagliando con i pantaloni valentinici da Luguru, e che tu bussato riprendendolo e prendilo. E allora, e poi si batte della tutta, cazzo se c'era va pure la stampa di Varese, si vede, cazzo, boh, cazzo, io mi abbia fatto un accidente, cazzo, boh, si vede che a caso, po' fresco, a Varese. E allora, intendi i calori nelle parti basse, ma già vera Luca te la lì sul morale, diglielo lui. Luca, ma le come? Vai un po' di mal di testa. Che c'è il vino, o la berruzza, uzza. Perché se quindi piccoli, guarda. Vabbè, berruzza a cacetti, vino a cosi, giammai, paghi su quindi pizzi. Sì, sei usciato a tratti lì. Ho detto, copiato mai, la birra a cascetti e il vino a cosi. Ma dici, ma chi su che bingo? Ti buon a piombo, ti sento a tratti, non capisco cosa dici. Però, bene, buh. Buh, come mi senti adesso? Adesso ti ho sentito bene. Ho detto, Luca, che birra non li vici, ed io la giudice a caci, e di vino li manco, ed io a cozzi. A cussi? Ciao Mari, Oh Luca, io non posso fare il caso, è nell'ana con Gio Maria. Ogni tanto mi tenne a tratti. Allora io ti sento a tratti, Luca, più vicino magari ti sento più bene. E io ti sento tratteggiato a momenti. Addio, da me arrivi bene. Wow, hai schiacciato a Gio Maria, cioè Gio Maria ti ha schiacciato, Luca. Sentite a tu sotto di lui. Vai Gio Mari. Perché sono piccolino e mi ha schiacciato Luca, capito? Grazie. Tu a lui hai schiacciato. Sentite a Edu sotto di te. Però passavi tu. Strano, ecco, mai. A pensare che ero piccolino io. Vabbè, evidentemente vai a capire di questa gente tu. Luca, come mai? Dovresti arrivare più tu che sei vicino a me. E allora c'è un lineare qua sotto. Cosa ne pensi di dire lui? Non so che arriva più forte di lui. Non lo so, io sono in camera da letto. Sì, ti ha coperto, proprio tappato sopra. Senti, va lui e a te di sotto, tutto così. E cosa vuoi ti dica, boh? Avvicini. Adesso è più forte lui. Io non mi offendo io. Eia, riprendi Gianmari. Aspetta, rientro subito, grazie. Eia. E beh Luca, cosa si venna va? Ui, faccio un mese mal di capo, tu mi hai contagiato. C'è mal di tetto, sono sdraiato sul cuscino. Io ho mal di schiena allucinante, non mi basta più. Che cerni del disco mi sono ammazzati. Tu casino, un poco mi dovevi sulla destra, un poco sulla sinistra, ne mi li compresa. Un casino. C'era la porta a finestra, su vende e compro, però era troppo alta, 242 era di altezza. Per il terrazzo mi serviva, troppo alta. Tu non ne hai, no, non ne conosci gente che ne ha. Ma porta la finestra per il terrazzo. E dove c'ho l'ombrellone, il terrazzino. Devo farle, levo la finestra e faccio la porta a finestra. Chiava mi do cazzo con la scaletta a 3 gradini e alza l'anca e passassi dalla frabbarsi, capito? E manina apri un muretto, però. Un pezzo, non tutto, no. Gli lascio un gradino, paro sicuro, poi ci passano 2 tubi, ci passa il tubo sotto, all'esterno, ci passa il tubo del serbatoio, dunque un gradino glielo devo lasciare, capito? Basta scriverlo sul gruppo, cerco, e vai la trovi. Cosa? Ho detto basta scriverlo nel gruppo, nei gruppi, nei vari gruppi, no? Così male la trovi, scrivi le misure. Ce n'era un'altra, era un'altra grande e un'altra piccola, ed era troppo larga. Come altezza già era buona, però era larga. Sempre un casino. Mi farò un giretto lì da Rubiduccio a Portobello, a finire. Fai gusti. Ci sono comunque. Se chiedi magari, la trovi. Se no chiamo a qualcuno che fa i fissi e mi posso fare la buchetta e il lubacone sfrutto quello. Praticamente dovrebbe farmi il telaio per porta a finestra e sotto mi vado una buchetta, capito? E la finestra dopo quella. Va bene allora. Va bene anche così. ha spostato la gara, la bustetta pure abbassata, va con una bici. Mi sa che faccio così, forse mi compagno il muro. No. Poi la cristalliera è venuta la pipi, grazie. No, è venuta la tipa a guardarsela e mi ha detto che era troppo alta e larga. E la gente, le misure te le ho dette al telefono, che erano così. Ma io la volevo vedere di persona proprio. E questa qua, se l'ha misurata, è troppo larga, è troppo alta. Dopo la deve mettere questa. La dice, se la vuoi così, io non voglio di fascia nuda, né restringere né abbassare. Se la vuoi così come, se no, già rimane qua. E allora niente. Un altro mi ha telefonato e mi ha chiesto le misure. E la giudice, eppure le avevo messo le misure, comunque le ho date e mi ha detto che era troppo alta anche quelli. E vabbè, non si può abbassare, gli ho detto se ne levi la cornice di sopra, gli ho detto se ne levi la cornice che c'è sopra e abbassi i piedi alla metà di quelli che sono adesso, una circolare li spacchi in due e ne lasci il più basso, ci dovrebbe stare. E ma no, mi piace così con la cornice, allora niente da qua, se la vuoi così, se no niente. Se la vuoi così se la lasci. Ma che se a filo di bovida la tenna affittata nella cornice, ma l'importante è che ci stia. La cornice la conservi da una parte o no? I piedi li puoi abbassare la metà della metà e recuperava lo spazio giusto, praticamente li veniva che io ve la ho misurata e no, qui fuori, e gli ho fatto il calcolo e ti viene giusta giusta, dunque se la vuoi così e se no niente da fare. Allora, se la dassi. Io gli ho detto se no ti fa il giro, se la trovi un'altra, guarda, se la vuoi a quell'altezza così, non lo so, penso che siano quasi tutte le stesse altezze, quel tipo di cristalliera che ho io, boh. Alla fine è un casino, perché se tu ne levi quel pezzo lì, praticamente cambia, è nata così e così deve stare. Ma della cornice non mi va pure a manco, ma la finitura è che non vedi proprio sopra la credenza, capito? Si può fare anche così la gente, ma poi le barre da su, poi tu questa qua te la fai fare da falegname un tantino o un tantino più lunga e l'attacca la bovida e gliela appoggi così al mobile e si vede, vero ma te sa che facendo così non mi piace e allora è così la carità. Certo, senti. Quel ragazzo, e te l'ho mandato io mi sembra, ce l'avevo e mi ha già cancellato. Un ragazzo con la chitarra. Bravo. Chi è quel ragazzo con la chitarra? Sì. E te l'ho mandato io quello. O tu a me l'hai mandato? Beh, io lo mando su Facebook, vabbè tu lo mandi a me. Voi me lo mandi più volte a me, lo mandi a Luca, Luca lo manda a me. Ehi, non lo so, a me me l'aveva rimandato. Non lo so chi me l'aveva mandato, boh. Sì. Bravo. Giovane. È bravo sì con la chitarra, è un bel puro. Se continua quello diventa ancora più bravo. Aspetta un attimo, grazie. Ehi, Vabbè, grazie. Uffetta! Hola, hola, hola! Graziano! Uffetta! Dimmi! Dormita, io ho un po' di mal di testa, poi sono angustia, ma non mi è passato, va. Non del tutto, ma quasi. No, adesso sto passando le piante che ha comprato Paoletta e le mette nei vasi più grandi. Aspetta. Iaia, sono qua. Sul terrazzo, Ah, Paoletta sul terrazzo, E non lo vedi che c'è l'ombrellone? No, è chiuso qua. Ah, chiuso. Ha preso tre piantine, c'è il barbecue, l'ho già piazzato, bello, Adesso gli faccio una foto e te lo mando nel giardino, aspetta. Non c'è la paletta. E dove fuori? Aspetta, già te mando una foto subito. Aspetta, confetta, io ho visto l'ombrellone adesso. Aspetta, faccio la foto. Non ho capito. Faccio una foto e te la mando. Ma c'è musica, c'è. E in piazza, non lo so chi è, uno che sta suonando. Lu, arrivatati. Sono in terrazzo, grazie. Sto prendendo un po' di fresco. Allora mi sento una... Sta piantando queste vasetti di fiori. Già non vedo l'ombrellone, è blu, Domani me ne devo salire la sdraio, e devo mettere una piscina. E così ogni tanto mi bagno e mi sdraio. Mi devo affugarmi, occhio. Schiaccio le pinne nella mano, niente unito. Bibite fresche. Allora, cazzo, vai a chiudere una bozza, Che qua ci viene baruguraghi tu, intanto chi te lo fa, se tu non ne sa fa. E allora, per carità, guarda. La gelosia fa quello e altro, Luca. Sono mezzo imbriachi, chissi, e sono gelosa, chiedi, ma fa una cosa, devi lasciare imbriachi. A chi da zinca non so buona nulla. Infatti, la gelosia è una brutta malattia. C'è venuta gente invidiosa in giro. La gente ha preso la bocca quando sono mezzo guti. Quando sono sinca ribale nei gattuzzi, manco tutti i giorni. Ci ribassa, grazie. Se non li può passare. Se non può passare, i paesi. A chi avessa niente vi dà un piatto, un domani quando non vuoi finare la guccagna, che non vuoi più il piatto, li voglio vedere. Quando li finirà provenda, a mangiare a lavarli, li voglio vedere. Infatti, è isso, Già li finisce e poi li voglio vedere, che ha finito facile. Grazie, mi andava via. Morti di tutti. Che per carità. Luca Marcel. Luca Flippet. Luca Cripp. Oggi sta lavorando, a te non ti ha portato. Io avrei messo una bomba. E allora, come ti dai mi chiama? E allora, hai compreso? Tu fatti pagare l'indennizzo adesso perché non ti ha chiamato. Indennizzati. Senza assicurazione, di narizzi ti devi dare. Già la giubica a posto. Bello, un pezzo a chi vede la Paoletta e mi sarebbe visto. Ha giocato la prima, la spigliata di guru. E lui? Picchialo, picchialo, Marina. Ok. No, Marina non mi picchia a me. Che se glielo dico io, è con Paoletta. Ti frusta. È vero. Ma mi hanno visto. Marina, frustalo. Con un elbio di cavallo. È vero. E allora? Tutto fiorito qua. Senti, te il albero di rubessi che non cresce più. Sempre la matta salsiccia. Qua sono ancora fragole niente. Sai che ma cos'è che sono? Fragole, palpa il seno a poliziotta e si masturba. E non l'ha arricciato? No. Allora li biazia la poliziotta. Sicuramente. Chissà, sarà stato un mostro e poi se non l'ha arricciato. E allora? Però qualche poliziotta già c'è in gamba, già l'ho vista che quando hanno fatto il giuramento da poco a Roma, qualche donna già era in gamba, però ce n'erano che erano bruttissime. Oh, da sabato. Perché cos'è sabato? Traduci, Luca. Cuffè, stiamo andando. No, gli ho dato le piantine, il DCC per il babaus, perché c'erano delle formichine, quelle piccole piccole, e ne sta mettendo un po', sennò si mangiano i fogli dei pianti. Eh beh, certo. Ma ho preso il DCC, quello buono, per le formiche, e ha morto anche col cannello, quello portatile, a mano, da poco. Più ne ammazza e più nisci. Come posso immaginare? Nel terrazzo nelle piante, dalle piante ne escono, non lo so nessuno. Evidentemente c'hanno gli appartamenti dentro i bacini, in mezzo alla terra, compresi. Loro camminano dappertutto. E io quando le vengo le posso la vicca. Vabbè, a cannello. Da poco mia, so quando ne ha morto Paoletta, c'era un pezzo, era niente di canto venire in terra, tutti bruciati. Non posso immaginare. E salgono da giù, lungo il muro, tutti in fila indiana. Ti credo. Aspetta che gli do una busta. Bello bene, ci sì. Capitano Maria è sparito, sulla 27 se n'è andato. Ci ha traditi. E che sono qua, E allora perché non parli? Luigi Dore dice i biglietti. Tocca lanciare la pesca, papà, l'uva vita. Perché mi sto guardando un film, capito? Ecco cos'è. Ha detto che eri sulla 27, Giovanni. Ah? Ha detto, Graziano, che eri sulla 27. Oh, no, saranno. No, è accesa ancora. È accesa, sì, però non l'ho toccata ancora, la 27. Visto l'ombrellone, la foto, lui. Sì. Bello, e tutti i fiori, l'ha ingrandita la foto. Meglia, già l'ha vista anche Maria, che è molto bello. E adesso metto la piscina, le due sdraio, e m'abbronzo. Cosa fai, la piscina dai bigliati? No, domani me la compro, quella quadrata. E le sdraio già ce li ho, le metto qui l'ombrellone, c'è già il tavolino, ce l'ho. A Puglia, altro che mari, me lo posso fare, c'ho anche la sabbia, c'ho nei biduni, c'ho anche la spiaggia. Dove te la piazzi? Dove c'è l'orto botanico. Ah, e l'ombrellone è molto grande. È già grande, sì, blu e Luca già l'ha visto. La dica giù tutto gli ore in ovvia, poi si interpreta, ma dice, caspita, è qua il giardino, il tuo, la gita è allora, che aspetta? Allora va bene, non c'è bisogno di andare a mare. Mettiti sali pure, mettiti però in quella vasca, Piano. Un poco di sale grosso se bongo. Fai così, mettici sale almeno la modifica l'acqua, capito? Vabbè, già c'ho quell'abbronzante che ti abbronza, capito? Quello disinfetta tutto. Paletta mi spalma tutto quello. E mi va di la macchina, fanno bruciare l'ufficio. Fatti mettere il ventaglio, comprati anche il ventaglio, così che Rosy si metta da una parte a fianco e soffia, a meno che abbronzi. La salina è uscita dal bagno, ma via tutta la faccia abbitturata, si vediano solo luci. E non è che non si vedia, la città cosa è che c'è cosa si dice la macchina. Furru! Chi c'ha la voce a vola lì? Piazza la vicina! Fai un affare! Così, già Mari, mi vieni per affogarmi! Che peggio! Sì, la piscina non vanno più né a mare né in piscina a pagamento, tanto da Graziano così non pago nulla. No, una tariffa la metto, logicamente. Vabbè, 2 euro te li do, cura. No, mi pare che piglia il suo vangazzo, 30 euro a di, così. Ma cosa 30 euro a di? Io vado a Monteoro e paghiamo 7 euro... da persona con la doccia pure, dalle... il braio e l'ombrellone. Cioè, dalle? Dalle 10 alle 7 di sera. Dalle 10 alle 7 di sera. Vicino a campagna mia, già lo so dove. Già è Bedusi, pure io, già l'ho visto già. Non ci sei andato da poco, mi sembra di sì. Hanno passato ciò che è andato, non da poco. Già è bello, già lo so già. È vicino a campagna, passi dall'Utturini e arrivi in campagna. E si conferma. È buono. C'è anche il bar, c'è tutto. Il chioschetto, no bar. E si sta bene. Praticamente lì paghi 7 otturia, se non mi ricordo esattamente. Ma c'è la doccia anche. Praticamente vai pulito, stai in piscina, mangi tutto quanto, poi prima di andare ti fa la doccia, ti porti il cambio e arrivi a casa pulito. Già lo so, andava in via, è buono. Ma c'è anche quello al vangazzo, non lo so, sempre funzionando, sta. Sempre. E anche lì già è bello, solo che lì c'è in mezzo ai balanzi. Invece a Monteoro si è in aperta campagna, diciamo. Già è bello. Lo so. Già Marino, vanti giù. Sogna di chi vivo? Io mi arrivo la canna da pesca, che mi sono i pesci russi, vero? Dai, faccio la cisterna di campagna, vado. Non pago niente, vi ho 4 imbiati, fresca, oia. Ma che mi sono le volpi la cisterna, vero? No, finendo, catta. A Puglia, faccio pure la doccia in campagna, sicché esce proprio profumato, pure un profumo faccio. Mi sa che mi danno la Gio Maria, mi ha dovuto il battuglio, vero Gio Maria? Ma ne mica faccio il bagno. Allora, mi sto poco tretto. Catta. Oia. Dai. Me la fossero io la doccia, cazzo, che c'ho con bimbe, dai, troia. L'ho fatto io così, no? Oh, ma accammarmi! Io a mare non ci vado, sono... Io sono a 30 anni che lo vado a mare, io. Proprio, no? Chi lo tocca l'acqua di mare, magari ad altri ci sono andati un paio di volte. Però l'ho visto da lontano il mare. Io quest'anno se... Sì, non mi intendo male, ci vado qualche giorno. L'anno passato non mi sono andato. Quest'anno ando, che dì ando, Cufferi, magari. Ho da sicuro che ci vuoi fare anche voce così. A fare una passeggiata. Ma giù, a pigliare qualche gelato, da voi pinnare. C'è cosa vuoi fare? O tu vuoi, sarò fresco. L'anno passato mi sono comprato un paio di voci. Adesso mi sono caro in sa cosa ti fa venire. Luca! Ehi, sono qua, dimmi. Piantate, ecco, adesso so, è più fiorito. E ti manca la marijuana, sei a posto. E allora, così ti viene nel vero. La levata mi sembra Salvini, quella legge di vendere la letta al televisore, poi rivendi solo ciuppa ciuppa e bibite, però non fate nulla. E basta mondezza, dai. Oh, yeah. Vabbè, comunque. Andiamo, catta. Sono inefficaci, dunque la gente non se ne compareggia. Ne c'è uno al televisore che doveva chiudere perché l'hanno arruinato, perché lui ci ha investito 30.000 euro per aprirsi quell'attività e aveva tutta la merce, i chimici che non sa cosa va a scendere. Non la bu, quindi dopo la comprata non gliene ritirano. Beh, certo. Ma comunque quello di Fiammendo l'ha aperto, ma è proprio leggero come coso, come principio di, come si chiama, di... THC. THC. Proprio leggero, ti devi fumare, ma sconvolgiti, ti devi fumare tuo negozio. Alla fine. E allora, devi ingrassare al padrone del negozio. E uno non anda se la compare già dallo scacciatore. Ormai così la biglivona. E beh, vero è Giomari. E allora, e non solo, quei negozi che hanno chiuso, la merce è quella, se la ditta non te li ritira più indietro. Oh, e se questa quella roba lì, non la puoi vendere, capito? E allora dimmi se si la bocca niente, se la fuma niente, la finanza. Sì, di uno. Entene, ma Marina te l'ha detto, cosa l'hai detto, ripeti? T'ha già detto grazie a... che se mi devo comprare un cannone, andiamo a comprare un spacciatore, non ando in un negozio. Capito, mia, un cannone, ma però... con l'umonti, a cai... mi vai a Luca, dimmi a Luca, ti fuma a Luca, che è un cannone. Vero, Giammari? Ah, il campagna c'ho chi, uè. In campagna ha ragione, cazzo, la ragazza di Luca, No, no, chi fa di male, infatti. Fa di male alla salute. E fa di male alla busciacca, no? Per carità, cazzo, grazie, mi maraviglio di te, cazzo. Fumare, solo spinelli, la sigaretta fa male. Non è che spinelli nulla, fumo zero. Io sono allergico al fumo, l'unico fumo che non mi dà fastidio è l'arrosto, quello non mi dà fastidio. A me sì, io lo mangio il buon arrosto. Vabbè, ma tu fumo, sai com'è, no? Figlia di la bimba! Niente fumo, io sono 11 anni, 11. Ho fumato per 20 anni e sono 11 anni che non tocco una sigaretta. Una male che ne venga. No, no, non fa per me. No! Giomari! Vai, sto chiudendo che devo fare cosa, saluto in casa, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole. Ciao, grazie, altrettanto, saluto la Russia da Lorenza, ciao. Ciao Gio Maria, saluti da parte di Paoletta, a domani se coincide, ciao. Ciao Gio Maria, salutoni da anche a te. Ciao Gio Maria. Anche da parte di Marina, salutata a 50, buona cena domani, ciao Gio Maria. Nel caso faglielo avere a Luca quel coso, poi domani mattina fagli uno squillo, si fa un salto, lo prende e lo controlla e così lo proviamo. Vediamo un po', dai. Ok, ciao, dai, buon prossimamente se te riprendi, ciao. Ciao Giovanni. Uscire, grazie. Grazie, vediamo un po'. Ci vestiamo, andiamo lì in Via Castello e ci compriamo una bella pizzetta da Puttiche. Oh, l'ho cucinata l'altro giorno, sabato mi pare, o domenica, non me lo ricordo. Me l'ho ordinata da Sant'Orsola, il calzone, come si chiama, quella pizza chiusa. E l'altra era, non so come dire, tre ne ho prese, eravamo in tre. Cioè la vola, ma non mi ha attuffato a me il bici, ma no, io già c'ho il riso insalata, che è buonissimo. Mi paletta adesso ha messo delle bistecche, però la sta facendo alla pizzaiola, col sughetto. Capito? Lo so, grazie, ma io sto così una pizzetta, dai, una quadrata. Poi se Maria ne vuole due, se ne mangia due. Già sono buone, anche io quelli lì qualche volta le prendo, invece mi dammi i sciamanni, manna, mi piglio due di quelle o me ne mangio uno o due, e sono buone, sono anche saporite. Ehi, ehi, io andavo giusto per capito, giusto per vabbè, lo stomaco pieno, ma a me già mi basta, tanto abbiamo fatto già la merenda. Ehi, ma io molte volte la prendo perché magari non ha giocato di cucina nulla, paletta non ha grande, ma quella allora me la prendo, e molte volte se no anche di mezzogiorno manda mia figlia e gli faccio comprare un polletto già cotto, una vaschettina di patate, una con una di melanzane, o chi su chi be, capi? Con un desiero, mangiamo in tre, ma... ma dicono che le migliori sono quelle di cocco. Invece quando c'era la buona anima di signor Giovanni Putti, lì, queste le danno le buone, buone, adesso questo qua sono buone, ma non è come le faceva il signor Giovanni. Quelle della ruota sono buone, io le ho prese alla ruota, quelle al taglio. E sono buonissime, caspita, un bel buone. Ah, ecco, le via Rosello sono più buone. E via Rosello gli ha slipati di buon avviso. Luca! Sì, già lo so, grazie, già lo so. No, vabbè, io le mangiate da cocco sono buonissime. Purtroppo l'impasto è sempre quello, se glielo cambi, è su conto. La mozzarella, la cottura, non devono essere troppo bruciate perché altrimenti non prendi gusto. No, ma questa è Sant'Orsola che io le ho prese lì, no, alla ruota, quelle al taglio. Erano buone, cioè la Nivonia, però le migliori sono quelle che ho mangiato, quelle di via Rosello sono buonissime. Caspita, tutte le volte mi capitava un romanzano, mi ripigliavo un romanzano, ma senti, ripigliavo così così, caspita, proprio buone. Io un periodo le compravo lo stesso, San Giovanni Putti che le faceva buone, ma buone veramente. Io sono molte volte, non sai dove vado a pranzo, il piatto composto, lì dove c'è il bar tabacchi, dove c'è l'Eurospin, paghi una cazzata da riga ogni vasoio di calamari, non ce la fai neanche a mangiarti. Dove? Al bar tabacchi, dove c'è la tenda che c'è il lavaggio, anche all'Eurospin, da mura. Ah, e beh? In quel bar tabacchi che c'è lì, se vuoi mangi piatti composti. Adesso così mangiava, io ci ho mangiato lì ogni vasoio di calamari, ma buon avviso mi. Invece roba fresca. È roba fresca, freschissima, caspita, buono, cioè, ma mica vado un bel niente a mangiare. Vedi tu che si piglia la vecchina di cavallo, vedi tu che si piglia i calamari, e insomma già ce n'è da mangiare, ti dice il menù, tu scegli quello che vuoi, e si paga poco anche. Ho capito, vabbè, mi vengo pure di botti, così mi sta accompagnato, così provo a radio, sono le 45. Vabbè, adesso spendo, da che mi possono insulti. A domani, ciao Marina, ce la sentiamo. Saluta a parte Paoletta. Ciao. Sì, a contraccambia, dai, si sta cambiando pure lì. Ciao, grazie. Saluta Paoletta. Buona cena domani, ciao. Ciao, ciao.